Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 5 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia Il riposo del guerriero insieme fino a mezzogiorno e oggi vorrei conoscere quelle che sono le vostre più o meno inconfessabili manie, visto che se le confesserete non sono più così inconfessabili. Vorrei capire cosa vi piace collezionare, quali riti avete prima di affrontare una prova o semplicemente prima di affrontare la quotidianità. Oggi parliamo infatti di chi colleziona oggetti, li colleziona magari per amore, chi per passione o chi per ragioni che non si riescono proprio a comprendere. Incontreremo anche degli ospiti oggi che fanno collezioni di oggetti davvero assurdi. E uno dice: non è possibile che uno si riempia la casa di quelle cose lì, e invece così è. E quindi cercheremo di capire anche perché proprio quell'oggetto e non un altro. E cercheremo di capire ovviamente anche quando abbiamo superato il limite, come cercare di sconfiggere quelle manie che in qualche modo ci hanno imprigionati. Quindi se avete qualche mania, qualche ossessione, qualche passione, se siete collezionisti di qualcosa, qualunque genere, raccontateci la vostra storia. Gli sms come sempre al 349-238-6666 oppure nella pagina Facebook del Riposo del Guerriero. E oggi avrete anche la possibilità di portarvi a casa due ingressi per la bellissima mostra Manet Ritorno a Venezia, che sarà a Palazzo Ducale fino al 18 agosto. Una bella occasione per visitare, o tornare, spero, a visitare una delle più belle città del mondo. Sicuramente per riuscire a portarvi a casa questi due biglietti dovete associare una canzone che vi farò ascoltare al titolo di un'opera di Manet. La canzone, la prima canzone che vi farò ascoltare è questa. Questo è Nino Ferrer, un vecchio Nino Ferrer, di Le Cornichons, che sono i cetrioli, se non mi sbaglio, i fagiolini, insomma, e lui racconta una cosa in questa canzone e dovete cercare di associare questa canzone al titolo di un'opera di Manet. Questo più tardi, giocheremo intorno alle 11.45, potete prenotarvi però già da adesso, il numero è questo, 800 24 00 24, e cominciamo allora a entrare nelle vostre passioni, nelle vostre manie, nei vostri riti, con una bella canzone che parla proprio di passione. Abbracciami e fammi illudere, che importa se questo è il momento in cui tutto comincia e finisce, giuriamo per sempre, però siamo in un soffio di vento che già se ne va. Siamo in un soffio di vento. La colonna sonora di Saturno Contro, un bellissimo brano di Neff, che è passioni, appunto, anche se noi parliamo di passioni un po' diverse. Oggi lo facciamo intanto con il nostro ospite, che è Giorgio Nardone. Buongiorno professore. Buongiorno. Fondatore del Centro di Terapia Strategica e direttore della Scuola di Comunicazione Problem Solving Strategico, della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Breve Strategica di Arezzo e docente di Tecnica di Psicoterapia Breve. Abbiamo catturato il professor Nardone perché è uscito da pochissimo un volume intitolato Ossessioni, compulsioni, manie, capirle e sconfiggerle in tempi brevi, perché pare che il 5% della popolazione sia affetto da questo disturbo che si chiama DOC, che è l'ossessivo compulsivo. Però in realtà noi, insomma, oggi non è che vogliamo entrare nel tema medico, ma in realtà entriamo nel raccontare diciamo riti quotidiani che magari abbiamo e non ci accorgiamo che questi riti mano a mano possono diventare delle vere e proprie prigioni. Nardone. Allora, direi che prima di tutto dobbiamo partire dal dato. Il 5% si riferisce solo e soltanto alla casistica che arriva presso uno psicoterapeuta o presso uno psichiatra, nel senso che quindi si riferisce solo a casi lì, a casi estremi, diciamo così. Ecco. Ma se noi volessimo estendere alle persone cosiddette normali, che hanno delle manie che però li condizionano, il dato dovremmo quintuplicarlo, forse anche di più. Anche perché immagino che tutti, insomma, abbiano una piccola mania che magari non diventa una prigione, è una piccola cosa che quindi non crea nessun limite alla vita quotidiana. Ecco. La maggioranza, per esempio, dei chirurghi mettono in atto dei riti propiziatori prima di entrare in sala operatoria, così la maggioranza degli artisti prima di fare una performance mettono in atto dei riti propiziatori, così come gli atleti. Ma poi possiamo individuare altre manie, dal collezionismo che diventa poi accumulatore. Di quello poi parleremo oggi, infatti, anche. Oppure di persone che si fanno piccole torturine piacevoli, come quelli che si strappano i capelli, che può diventare una cosa grandissima, ma parte da un vizietto minimo. Guardi, c'è un racconto proprio del suo libro, è proprio dedicato a un capitolo di questo genere, a chi una ragazza si strappa i capelli. Ho fatto fatica a leggerlo, devo dire, se la brividivo da solo. Tra l'altro nel libro raccontato che a un certo punto lei obbliga questa ragazza a guardarsi allo specchio mentre esegue, diciamo, il suo strappo, e a me dava fastidio. Io non ho questo tic, ma mai l'avrò in tutta la mia vita, l'ho risolto proprio. Già solo leggendo il capitolo, sì. L'ho risolto, mi fa fare questa cosa. No, l'ho risolto subito, non succederà mai. Se quindi funziona, anche se non li avete, li eviterete. Ecco questo, andiamo avanti, scusi. Certo. Quindi, parlando in modo più esteso per il largo pubblico, quello che è importante sapere è che avere delle manie, delle piccole ossessioni che ci condizionano poco, non è una patologia. Il problema è quando questa cosa dilaga, prende spazio fino a impedirci di fare quello che vorremmo fare se non facciamo quei riti. Allora lì bisogna stare molto attenti, perché c'è una sorta di soglia oltre la quale la quantità diventa qualità, quindi da avere delle piccole manie si passa ad avere un disturbo ossessivo compulsivo. Ecco, adesso, quindi c'è bisogno dello specialista. Certo, quindi vedremo il limite, vedremo anche lo specialista, perché come si fa a risolvere non è semplice come sembra, perché a quanto pare non servono gli psicofarmaci, ma bisogna lavorare su un piano completamente diverso. Dopo gli aggiornamenti sul traffico, ma intanto vi ricordo, e stanno già arrivando i vostri messaggi con le vostre collezioni e le vostre manie, al 349 238 6666. Il riposo del guerriero. Sarà anche il ponte di primavera, ma io la vedo sempre più lontana e fredda, però non importa, questo tempo non si mette a posto, dobbiamo cercare di mettere a posto noi. Allora, professor Nardone, quando dobbiamo cominciare a sentire campanelli d'allarme? Allora, quando, che so, il andare, per fare un esempio tra i più tipici, no? Andare a ricontrollare quello che ho fatto diventa una roba che devo ripetere più volte. Che so, sono al lavoro, ho scritto una cosa, la controllo una volta, è sano, ma se io devo tornarci più volte per verificare che non ho fatto errori, allora comincia a diventare insano fino a costruirsi come patologia. Oppure ricontrollo se ho chiuso le porte di casa prima di andare a letto, se controllo una volta è sano, se ci devo tornare diventa un problema finché si trasforma in vera e propria compulsione. Sì, magari aprirle per vedere se poi le si sono chiuse. Esatto, ecco, vale la stessa cosa per i rubinetti, oppure per sistemare le cose in certe posizioni che devono rimanere esattamente in quelle, guai se le sposto, se me le spostano. Ecco, prego. No, volevo chiedere questo. Spesso ci si nasconde dietro l'insicurezza, cioè si dice che sono insicuro e quindi lo rifaccio per sicurezza, ma è un falso motivo, credo. Allora, questa è la trappola, perché eccola lì. Io mi faccio l'autoinganno che per essere sicuro devo controllare di più, ma in realtà se io controllo ciò che ho già controllato, l'atto del controllare, sembra un scioglilingua, non mi dà più sicurezza, ma mi fa aumentare la mia insicurezza. Una delle motivazioni fondamentali per cui si costruisce un disturbo ossessivo compulsivo è proprio il cercare la sicurezza all'estremo. Quando io vado oltre nel volermi rassicurare, o controllando le cose o chiedendo a qualcun altro il parere per essere rassicurato, io confermo dentro di me prima di tutto la mia insicurezza e la alimento. quindi questo è un percorso che poi oggi cercheremo anche di descrivere e di cercare di affrontare, perché è fondamentale. E intanto, non so, una curiosa collezione, Roberto scrive: ho cominciato a giocare a giochi di ruolo 18 anni fa e da allora sono più di 300 i dadi che colleziono. Devo dire che i dadi non occupano grande spazio, quindi 300 dadi ci stanno. Il problema è quando qualcuno colleziona cose un pochino più voluminose. C'è un tipo di collezione che accomuna moltissime persone, davvero molte. Io, prima del prossimo ospite, alla quale chiedo di avere un attimo di pazienza, vi faccio sentire un'intervista che ho realizzato ieri all'inaugurazione del primo museo italiano dedicato all'illusionismo. Poi ne parleremo nel corso della puntata, perché nasce proprio da una passione e da, forse non dico un'ossessione, però dalla voglia di collezionare. Sentite Raul Cremona, che è un collezionista di libri antichi, che cosa ci ha rivelato. Beh, devo dire che per cercare libri antichi ho speso tanti soldi, questo fuori dubbio. Ho fatto tanti chilometri e ho fatto tanti sogni. Sono sempre stato un po' diviso nel pensare se questa era una cosa buona o cattiva. Buona, perché quando hai fra le mani quel libro e giri le pagine, un libro del Settecento con dentro dei piccoli segreti, ti domandi chissà quale altre persone avranno avuto il privilegio di guardarlo, di toccarlo. Hai speso una cifra, non dico i soldi che ho speso. Dall'altra parte poi c'è questo pentimento di tipo, fra un po' dove li metto tutti questi libri? Anzi, più ti fai in là con gli anni, ti dici, poi magari arriva un rigattiere, se le porta via con poche lire e tu ci hai messo una vita per raccoglierli. Ecco, mi viene da pensare, ma poi questa mania, questa fissa, questa fisima, chiamiamola così, è utile o no? Boh, da una parte sì e dall'altra no, rimaniamo nel mezzo. Spesso e volentieri, per convincere mia moglie, devo dire che chiaramente quel libro l'ho pagato quel prezzo, perché se dicessi veramente la verità rischierei la separazione. Una follia che ho commesso tanti anni fa, ho speso una cifra esorbitante per un paio di libri e ho cercato di coinvolgerla nella mia... Guarda che bello questo libro, Etienne Gaspar Robertson, La memoria di un aeronauta, che parla di Pinetti incontrato a San Pietroburgo, bla bla bla bla bla bla. Lei mi ha chiesto, ma cosa costa questo libro? Ma l'ho pagato pochissimo, e lei mi ha detto, ah, sono contenta, però sapesse veramente quello che l'ho pagato. Ogni tanto però mi guarda di fianco e mi dice, senti, ma nel caso, io mi tocco le balle, quanto si realizza di questi libri? Graziella, teniamoli lì e guardiamoceli. Ecco, quindi Graziella spero che non senta la puntata, perché Raul ha confessato, Raul Cremona, qualcosa che prima non aveva mai raccontato a nessuno. Questa sua passione per i libri antichi l'ha spinto ovviamente anche a fare acquisti che, insomma, l'hanno fatto, diciamo, molto pensare. Luigi Mascheroni, buona domenica. Buona domenica a voi. Luigi Mascheroni, giornalista del Giornale, ha scritto un libro, devo dire, molto interessante, e io sono stato incuriosito dal titolo, che è bellissimo. Si intitola così: scegliere i libri è un'arte, collezionarli una follia. Di questo ci stiamo occupando oggi. Ritratti d'autore dei peggiori bibliofili d'Italia. Ecco, Mascheroni, collezionare. Allora, ieri in conferenza stampa Silvan diceva una cosa secondo me giusta, perché Silvan diceva: un conto è comprare un'intera biblioteca appartenuta a qualcuno, ma non conoscere minimamente il contenuto di quella biblioteca, nel senso che non si è lettori, si è solo possessori di volumi antichi, un certo valore. Invece un conto è collezionare libri, perché ogni libro racconta qualcosa, perché lo si è comprato in quel posto, perché rappresenta. E credo che questa sia già una differenza iniziale, o mi sbaglio, Mascheroni? Assolutamente, perché la vera passione, ossessione, è quella di costruire una biblioteca in cui ogni singolo libro, ogni singolo pezzo ha dietro di sé appunto una storia, ha dietro dei sogni, ha dietro delle passioni, ha dietro una caccia per conquistarlo. Raul Cremona prima in pochi minuti ha sintetizzato quella che è la passione e ossessione e i grandi problemi, i grandi piaceri di qualsiasi collezionista e bibliofilo, cioè l'assoluta necessità di denaro. I soldi sono fondamentali, se no queste cose non si possono fare. Lo spazio, senza spazio sei condannato a non poterti godere i tuoi libri, quindi è assolutamente inutile. E poi una moglie paziente, senza una moglie paziente non si può fare nulla. I primi due in qualche modo si riescono a recuperare, la terza cosa si perde subito. Ecco, forse le mogli perdono la pazienza il giorno del primo anno. La fortuna forse di avere una moglie con la stessa passione, no? Impossibile, non impossibile. Ho mai conosciuto una donna biblioteca. No, invece vedremo poi un'altra intervista che c'è, non riguarda i libri, ma un'altra cosa. Allora, Mascheroni, lei ha incontrato, non so, Andreotti, per esempio, che è un collezionista, ci sono tanti nomi importanti, sì, nel suo libro. Anche sia ovviamente il sottotitolo Ritratti d'autore dei peggiori bibliofili, ecco, d'Italia, quello, questo peggiore ovviamente declinato nel senso dell'ossessione, sì, passione, nel senso quindi tutto sommato positivo. Ce ne sono alcuni molto famosi come Andreotti, come Philippe Daverio, De Michelis, Marcello Del Bugri, sì, politici come Oliviero Di Liberto, eccetera. Altri invece che da questo punto di vista forse sono ancora più interessanti, completi sconosciuti, che però sono i più grandi collezionisti italiani, ad esempio di fantascienza o di libri di astrologia o ad esempio di futurismo o ad esempio di prima edizione del Novecento italiano, cioè in settori specifici. Ad esempio c'è il ritratto del più grande collezionista mondiale di libri di Simenon, che ha più e migliori libri addirittura del figlio stesso di Simenon, e quindi sono ovviamente ogni collezionista, ogni bibliofilo racconta in parte la storia della propria vita, della propria caccia ai libri, ma dall'altro racconta un pezzetto di storia della letteratura e dell'editoria, quindi come sempre dietro ogni singolo libro, ogni singolo nome, poi ci sono delle storie anche letterarie, editoriali, straordinarie. Ecco, le persone che ha incontrato Mascheroni sono collezionisti, nel senso che appunto hanno comprato, hanno cercato, magari hanno comprato collezioni intere da qualcuno, o sono anche lettori, cioè conoscono il contenuto dei libri che posseggono? Dunque, io ho cercato di fare una scelta, il mio libro raccoglie una trentina di ritratti, ho cercato di raccogliere, incontrare persone che avessero questa seconda caratteristica, per le quali il libro fosse anche strumento di studio, di lavoro, di interesse da un punto di vista culturale, proprio per raccontare qualcosa di più di un semplice accumulo indiscriminato di libri. Però non le nascondo che nella mia vita, anche nella mia professione di giornalista e a mio modo di bibliofilo, o perlomeno di amante dei libri, ho conosciuto diverse persone per le quali il fine ultimo era riempire intere biblioteche, indipendentemente da qualità o dal tipo di libro che si... Questa è secondo me la vera distorsione ossessiva, ecco. Però ci sono, ecco. Mascheroni, è mai venuta voglia di accaparrare uno di quei libri contenuti nelle librerie degli altri? Sempre. chiunque ama davvero il libro, nel momento in cui entra nella casa di qualcun altro vorrebbe assolutamente rubare tutto. Poi nessuna delle persone che io ho intervistato e ho ritratto in questo libro, me compresa, ha mai pensato che il furto del libro sia davvero un reato o un peccato. Siamo tutti per la depenalizzazione del furto del libro e assolutamente tutte le volte che si può si deve, ecco, quindi va bene metterli sotto chiave, questo è fondamentale, lo ricordiamo. Grazie Luigi Mascheroni, ricordo il libro Scegliere i libri è un'arte, collezionare una follia, ritratti d'autore dei peggiori bibliofili d'Italia. Questo peggiori è detto col sorriso, ovvio, come abbiamo capito. Grazie ancora, buona domenica. Grazie a voi. E professor Nardone, pronto? Ecco, prima della pubblicità una domanda gliela faccio. I libri, gli oggetti che si collezionano, rappresentano qualcosa di sé o no? Cioè io scelgo i libri perché c'è un motivo o... Allora, diciamo che ci sono due tipologie di collezionista. Sì. C'è il collezionista che colleziona solo perché l'essere il collezionatore lo renderà importante, famoso, perché supera gli altri in questa operazione maniacale. Mentre poi c'è il collezionista appassionato, quello che entra dentro la materia dei libri, che la sceglie per vocazione. Ma la tragedia che rende poi il collezionista patologico in delle occasioni è quando, come diceva il giornalista, il libro non è più uno strumento di sapere, non è più qualcosa da leggere, da conoscere, ma diventa oggetto feticcio, per cui si accumulano libri senza saperne nemmeno il contenuto. Cioè, la differenza fra lo studioso e il collezionista qual è? Se tu vai nella biblioteca di uno studioso, i suoi libri sono lavorati, sono anche segnati, non sono tenuti come feticci. Se vai in quella del collezionista, sono tutti messi, sistemati, puliti, quasi non toccati. Ecco, quindi lì comincia a diventare un problema e dobbiamo cercare di capire. Io, per esempio, ho una vasta biblioteca, ma se uno viene nella mia biblioteca sono tutti libri dove si sente proprio il lavoro che c'è stato. Infatti anche rovinarli, sottolinearli, far capire che i libri sono stati vissuti. Grazie Nardone, tanto resterà con noi tutta la puntata, c'è la pubblicità e poi andiamo avanti con il Riposo del Corriere. Volevo ricordare i vostri messaggi, ne stanno arrivando molti con le vostre manie, ossessioni e riti, anche al 349-238-6666. Il Riposo del Guerriero. Giuseppe Nardone, è arrivato un messaggio che mi incuriosisce molto. Dice: non riesco a guardare la TV. Se dopo aver regolato il volume o altro, l'indicatore non rimane su una cifra intera, se per caso rimane su una cifra come 23 o 24, parla del volume, lo devo mettere su 25. Invece se rimane su 21 o 22, lo devo mettere su 20. Oh, ecco, anche Scaltritti, il regista che saluto, ciao Roberto, andiamo nel vetro, ha lo stesso problema. Nardone, cosa facciamo di questi individui che non sopportano il 23 e il 22? In realtà non è la questione del non sopportare, loro hanno un'ossessione, una compulsione mentale che li obbliga a vedere la televisione solo, ascoltarla solo in quei livelli numerici dell'audio o di altre cose. Perché sennò chissà cosa succede, non esatto, so. Proprio un rito propiziatorio. Questo è un... è molto frequente tra le tipologie di disturbo ossessivo compulsivo. Fondamentalmente le categorie sono tre: quelli preventivi, e in questo caso io devo stare entro quei registri perché prevengo che succeda qualcosa, anche se in questo caso è un preventivo propiziatorio, non razionale. Cioè, il preventivo razionale è: pulisco tutto per non infettarmi. Quindi in questo caso le persone hanno questa mente che li costringe a fare le cose solo esattamente in un certo modo, altrimenti può accadere qualcosa. Ecco, e tra l'altro mi viene in mente il film Qualcosa è cambiato, un film straordinario, e che racconta proprio queste piccole manie, queste gestualità. Ci sono dei personaggi che conoscono perfettamente le manie di individui, qualcuno anche molto famoso, qualcuno meno, però degli individui, e sono i portieri d'albergo, perché sono quelli che conoscono tutto. Niccolò De Rienzo, buona domenica. Buona domenica. Il libro si intitola Nessun problema, i segreti dei portieri dei grandi alberghi, perché i concierge, cioè i portieri, sono obbligati a dire nessun problema, devono risolvere per forza la questione, giusto? Funziona così. Nei limiti di legge sì. Sì, ecco, sì, nel senso che devono cercare di dare una mano al cliente che ha sempre ragione. Ecco, io vi sconsiglio il libro perché comincia con una domanda, in poche parole, una sorta di quesito, e non dà la risposta, e a me mi è venuto il nervoso, perché l'ho anche cercato su internet, non esiste. Allora, cos'è Longoanga? Io sono ancora qui, no, perché tutto comincia da un cliente che voleva a tutti i costi un Longoanga. Il direttore dell'albergo non ha saputo offrire Longoanga perché non sapeva proprio di cosa si trattasse. Alla fine invece il portiere dell'albergo ha capito che cosa desiderava il cliente, giusto Nicolò? Esattamente così. Ecco, e non si sa bene come mai, però gli ha dato una scatolina e il libro si ferma lì, poi racconta altre cose. Allora, De Rienzo, quali sono le cose più strane che ha incontrato nella sua vita, anche con i suoi colleghi, parlando, cioè comunicandovi anche le assurdità, forse le manie? Ma guardi, non sono colleghi, Ah, ok. Nel senso che io ho scritto un libro perché ero interessato da una storiella che mi aveva raccontato un concierge. Ah, sì. Dopodiché mi sono chiesto, ma ce ne saranno altri, immagino. Come no, cioè pieno proprio. E si è aperto un mondo, devo dire, ma un mondo che era molto chiuso, a dire il vero, perché una delle caratteristiche di chi fa questo lavoro è la riservatezza, ovviamente. Sì, non si possono raccontare. Fatto. Io ho avuto la fortuna di avere un presidente delle Chiavi d'Oro, le Cledor, che è l'associazione che li raccoglie a livello mondiale, che mi ha spalleggiato per la produzione di questo libro. E mi sono potuto sedere con persone tra i 40 e gli 80 e passa anni che mi hanno raccontato appunto un po' vizi e virtù dell'Italia o di quello che succedeva in Italia negli ultimi 60 anni. In effetti di storie strane ce ne sono parecchie, ma a ben guardarle forse non sono neanche strane, nel senso che nell'immaginario di chiunque esistono, però la differenza è che in certi casi, come nel mio, esistono principalmente nell'immaginario, e per altre persone diventano l'ordinario. Quello che fanno questi concierge, come ha detto giustamente lei, è mettere in condizione che il cliente riesca a vivere ordinariamente quello che per altre persone è straordinario. Ecco, ci sono delle manie in realtà, no? Delle richieste che sembrano assurde per chi le vede dall'esterno e che poi invece diventano per qualche ragione fondamentali per chi le richiede. Ci può fare qualche esempio? C'era ad esempio un famoso attore che è Silvestro Stallone, che era molto in auge negli anni 80 e 90, che ad esempio quando soggiornava a Roma, soggiornava quasi sempre in un hotel in cui c'era Walter Ferrari, che è uno di questi signori che ho intervistato, e che aveva la mania del porridge, soltanto che lui si chiudeva in stanza, non voleva parlare con nessuno se non con il signor Walter Ferrari, e tutte le volte che gli mandavano il porridge o quasi non gli piaceva e se lo faceva rifare da lui, perché era stato a Londra, in questi signori studiavano molto spesso all'estero, anche in epoche in cui non era facile viaggiare, e quindi avevano appreso l'arte del fare il porridge e allora senza di lui non mangiava praticamente. Ecco, poi qualcuno chiaramente vorrà sicuramente quel certo numero di stanza, non può avere una stanza diversa. Ci sono persone che chiamavano mesi prima per essere sicuri di avere il numero X o Y, altrimenti non si sarebbero presentati. Sentivo uno scorcio di conversazione prima che potrebbe confermare queste manie, senz'altro. Ecco, e Longoanga, si è riuscito a capire di cosa si tratta o ancora? L'idea mia di includere all'inizio del libro, in questa prefazione, la storiella di Longoanga, anche se leveremo il gusto ai lettori eventuali, è perché è una metafora in realtà. Non esiste, certo. Proprio per il fatto di non esistere, ma che ci sia qualcuno che riesce a farti vedere qualcosa che non esiste, spiega bene quello che sono in grado di fare i concierge. In effetti le curiosità sono veramente tante, i nomi anche citati nel libro sono tanti, personaggi famosi, anche meno famosi, molti ricchi che possono permettersi appunto di chiedere quasi qualunque cosa, e poi insomma si racconta anche di grandi città, Firenze, Roma e posti che hanno raccontato proprio la vita, come diceva lei, di un'Italia degli anni 60-70. Grazie ancora a Nicolò De Rienzo, voglio ricordare il libro Nessun Problema, i segreti dei portieri dei grandi alberghi. Allora, Giorgio Nardone, cominciamo a cercare di risolvere. Se io ho la voglia, l'esigenza, l'ossessione di avere una camera con quel numero, sarà perché magari una volta me l'han data, mi è andata bene qualcosa e adesso voglio ripetere, no? la situazione, quindi una sorta di rito. Un'associazione propiziatoria sì. Tutte le volte. Ecco, come faccio a combattere questa, perché poi alla fine non è che posso rinunciare all'albergo perché non c'è quel numero di camera, voglio dire, a un certo punto. Allora, questo tipo di tipologia di disturbo ossessivo compulsivo, sì. Quello che noi dobbiamo fare è smontare la credenza propiziatoria, ma lo possiamo fare solo facendo fare le esperienze in cui la propiziazione fallisce, ovvero noi usiamo due tecniche in questo caso: o facciamo in modo che la persona cominci a introdurre nella sua rigidità di azioni una violazione piccola, no? Gli facciamo scegliere la più piccola violazione possibile, per esempio se è la camera dell'albergo, invece che chiedere in quell'albergo una camera diversa che sarebbe troppo grande per lui, lo facciamo andare in un'altra città, in un altro albergo, e gli facciamo scegliere un numero differente di camera. poi lo faremo andare in un albergo più vicino a quello di quella città, fino a gradatamente arrivare a violare quel tipo di esatta scelta nell'albergo. Questo approssimarsi progressivamente con esperienze che comunque vengono vissute come dire faccio una cosa che viola la mia credenza e vedo che non succede niente, gradatamente smonta proprio il bisogno. Certo, il teorema non regge più, ecco. Non regge più. E questo... Però l'importante è che non si può fare solo col ragionamento, ci vuole l'esperienza concreta. Perché il disturbo compulsivo si basa sulla compulsione che è sempre comunque... Cioè bisogna provare sulla propria pelle la reazione di quello che sta succedendo. Devo toccare per credere. Devo capirlo. Ecco, e se invece se volessimo risolvere il problema di Scaltritti e di Roberto, i nostri ascoltatori che devono avere il volume a quel determinato numero, possiamo fargli capire che anche se ottengono un altro numero non succede niente. La TV resta quella, credo, che i programmi non cambino. Di nuovo, bisogna fargli fare un'azione. Bisogna fargli fare molte variazioni. Per esempio in questo caso faccio ritualizzare il rituale più volte durante il giorno, mettilo a quel volume, poi mettilo a un altro volume, poi torna su quello per rassicurarti, poi mettilo un altro, cioè si crea una sorta di gioco che smonta quel tipo di credenza attraverso l'esperienza. Ecco, e funziona, davvero funziona. E devo dire, il libro è molto interessante perché noi tutti abbiamo piccole manie, senza poi che appunto si trasformino in compulsioni, sono piccole manie, piccoli riti, chiamiamoli così. Però è giusto, ad esempio io ho imparato molto a posticipare, poi ne parleremo, no? Anche perché quando si parla di collezionismo, per esempio, uno vuole a tutti i costi qualcosa, e a me per esempio funziona il posticipare, cioè dico non adesso ma dopo, e quel dopo poi non arriva mai e quindi poi ne posso fare tranquillamente a meno, e devo dire che funziona, me lo sono autoscoperto, poi mi dirà lei Nardone se è una giusta... un giusto approccio, perché è tutto personale. E prima della sua risposta volevo farvi sentire questa intervista al mago Forrest, perché lui collezionava una cosa e devo chiedere anche a Nardone perché uno decide quella cosa lì. Sentite che cosa collezionava Forrest. Le cose che mi piace collezionare, allora per un periodo ho collezionato interruttori delle vecchie case, sai, quelli in bacchelite, quelli in plasticaccia, ce n'ho a migliaia, andavo anche in giro per i mercatini delle pulci quando mi capitava di essere in paesi esteri, e ho una raccolta infinita di un migliaio di interruttori, anzi sono in vendita in blocco, quelle a pompetta, sai, quelle che le nonne c'avevano sopra la testiera del letto, capito? E invece ultimamente sono passato dai giocattoli di latta, sempre dai mercatini, adesso ultimamente colleziono insegne di negozi, targhe di metallo, rigorosamente in metallo, adesso non cito prodotti per non fare pubblicità, tipo la Coca-Cola, quella roba lì, ne ho una bella collezione. E poi mi piace collezionare anche insegne di negozi veri, anche non vecchissimi. Se c'è un negozio che capisco che sta un po' chiudendo, vado lì, mi informo e compro l'insegna. C'ho la cantina, non so per quale motivo, piena di vecchie insegne. Quindi adesso ne ho adocchiato vicino a casa mia, stavano ristrutturando dei negozi e sotto le vecchie insegne hanno trovato delle insegne ancora più vecchie che però purtroppo sono state dipinte su del ferro murato nel muro, che è difficile da staccare, però sono in trattativa, vediamo se riesco a trovare un fabbro, un muratore, uno che si occupa di esplosivi, e vediamo se riesco a staccarle in qualche maniera. Questo è il mago Forrest, Danilo Coppe, gli consiglio per far esplodere appunto la targa e portarsela via dell'insegna, visto che è sicuramente un esperto, però insomma collezionare interruttori mi sembra una roba talmente assurda. Invece è molto interessante e è stata anche visibile, perché li ha messi in mostra la collezione di Marina Ripa di Meana, che saluto, buona domenica. Buona domenica a tutti. Allora, lei ha una fantastica collezione di cappelli. Beh sì, qualcosa di un pochino più romantico degli interruttori. Direi proprio di sì. Ecco, però comunque devo dire sì, che anche io per i cappelli, insomma, ha fatto follie. Numero... ne ho un numero notevole, anzi non li conto più. Farei qualsiasi, ho fatto, farei nel mio libro Invecchierò ma con calma, l'ultimo libro mi è uscito, un racconto di episodi, di pazzie che ho fatto per i viaggi, addirittura che ho fatto, e pazzie che ho fatto per andare a trovare quel cappello in quel luogo che sapevo che c'era quel posto. Insomma, sì, ho fatto delle pazzie anche, per come sempre quando uno ama il collezionismo. Però l'unico inconveniente è che raccontandola questa mia collezione di cappelli, raccontandomi, spesso mi succede che me ne mandano in regalo anche di orridi. Appunto, lì è molto imbarazzante, perché sono, per cui anzi mi premonisco nel dirlo che chi ascolta questo non mi mandi i regali, i cappelli, ecco, perché gradisco i regali ma non i cappelli, perché i cappelli sono una cosa molto personale, sono una cosa che mi deve piacere scegliere soprattutto io. Quindi ogni suo cappello, questo è uno dei temi che oggi si discuteva, il fatto che c'è chi compra le cose in blocco, e che parliamo dei libri, no? Quindi chi compra una biblioteca in blocco invece lei proprio sceglie ogni cappello, ha una sua storia. È una scelta precisa, certo. Come dico, sono capace di fare anche appunto un viaggio. Cosa ha fatto? Qual è stata la cosa più assurda che ha fatto per avere un cappello, e com'era questo cappello, poi per capire? Ecco. Ma guardi, la cosa più assurda, soprattutto ogni volta, anche questa l'ultima, che è stata questa cosa a Venezia di mettermi in questo cappello con le corna, tutti le hanno viste, sì. È stato anche molto criticato. Ed è stato non facile farle queste corna, perché sono state praticamente disegnate da me e poi elaborate da una bravissima amico mio che era in Spagna, dalla Spagna me le ha mandate, insomma non è stata una cosa così semplice. Però effettivamente sono state anche molto molto criticate, perché l'idea che uno si presenta con delle corna in testa voleva essere, però in quel caso avevano anche un significato anche per me, un significato di, insomma, così proprio un vero modo di fare le corna alle situazioni che mi stavano arrivando e che stavano arrivando anche al paese. Quindi era propiziatorio, ecco, era, diciamo molto così. Molto propiziatorio, sì. Ecco, Maria Ripadimana, molte donne collezionano scarpe, perché lei ha scelto la parte opposta, i cappelli? Ma non lo so come mai, forse a parte che anche le scarpe ce n'ho un numero, anche io notevole, ecco, anche di scarpe, però non è proprio una collezione, mentre i cappelli vado, sì, ricercando quelli appunto anche di tempi passati, mi piace. Ma perché il cappello per me è qualcosa che anche è solo, anche solo da guardare, certe volte non è detto che uno lo debba indossare. Io lo indosso volentieri in momenti della mia vita in cui, non so, possono essere come uno schermo con gli altri, così come possono essere qualcosa di, per esempio, ricordo che la volta che ci fu la presentazione del film, i miei primi 40 anni, io andai alla prima vestita da uomo con un borsalino vestito che era un cappello da uomo. Non so, ecco, è qualcosa che mi fa, è anche uno schermo, è un diaframma tra me e la situazione di quel momento, può essere anche, sì, però è anche qualcosa che mi piace molto e che mi fa sentire un po', non saprei definire, comunque ci sono dei momenti in cui mi sento proprio portata per il cappello, poi ci sono periodi che non li metto per niente, ma mi limito a guardarli. Ecco, come giustamente si fa con le collezioni. L'ultimissima cosa, c'è un cappello che desidera e non è ancora riuscita ad avere? Ma no, guardi, per la verità, di volta in volta, quando decido, volere e potere, decido che c'è uno che devo dare, faccio qualsiasi cosa per averlo, come tutti i collezionisti, ecco. E funziona così. Grazie Marina Ripadimana, buona domenica. Grazie a voi. Il riposo del guerriero. Allora, professor Nardone, prima le chiedevo se il posticipare, visto che anche Marina Ripadimana parlava del fatto quando un collezionista, quando vuole una cosa, deve volerla, deve averla a tutti i costi, no? E io parlavo invece del posticipare questo avere fino a che si perde di interesse. Funziona oppure è una mia invenzione personale? Allora, una tra le cinque strategie terapeutiche per risolvere il disturbo ossessivo compulsivo si chiama proprio il posporre, sì, per poi potervi rinunciare. Lo stratagemma funziona così: se io mi impongo di reprimere una mia ossessione, una mia compulsione, un mio slancio, più cerco di reprimerlo, più diventa forte. Allora devo utilizzare un espediente, me lo concedo, ma non ora, fra un po'. Ma se io lascio passare quel tempo in cui la compulsione è forte, dopo un po' non è più così forte, spesso riesco a rinunciare a quel qualcosa che era irrinunciabile prima. È vero, poi arriva magari qualcos'altro, qui si è dimenticato addirittura della cosa. Esatto, e il fatto che lei lo abbia scoperto così da solo, sì. Da solo, cioè, è proprio importante, perché le strategie terapeutiche, anche se fanno parte di una disciplina medico-psicologica come la psicoterapia, devono ricalcare quello che noi naturalmente facciamo. La nostra mente già ci dà soluzioni se noi osserviamo come funziona quando funziona bene. In questo caso la capacità di dire sì, questa cosa me la concedo, ma più tardi, il più delle volte smonta quel desiderio compulsivo. Quindi proprio per le piccole manie che non sono ancora diventate compulsioni, questo è un espediente che può usare ogni individuo. Poi, quando diventa patologia, lo farà sotto la guida di un esperto psicoterapeuta. Sì, perché però bisogna essere anche instradati. È un'ottima logica per introdurre il cambiamento. Ecco, intanto vi invito sempre a fare le vostre domande, raccontare anche le vostre collezioni, le vostre passioni, le vostre manie, vedremo di capirle e magari affrontarle. Il numero è sempre 349-238-6666. C'è Paolo che scrive una cosa curiosa, dice: non è compulsivo anche non voler mai ripetere nulla di quello che si è fatto? Ah beh, potrebbe diventare anche in questo caso una compulsione o propiziatoria o preventiva, mai tornare sopra su quello già fatto. Sì, ma una compulsione la si riconosce quando è un impulso che invalida la nostra volontà o i nostri desideri o le nostre capacità. E può essere anche la compulsione a non fare. Certo, funziona esattamente nello stesso modo, no? È il rovescio della stessa medaglia. La paura di non rifare, perché chissà, esatto. Ecco. Luca Mencaroni, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Lei è un po' compulsivo, lo lascio dire agli altri. No, non ho capito cosa ha detto. Dico, lo lascio dire agli altri. Ah, lo lascia dire agli altri. Lei è sposato, Mencaroni? Sì, sono sposato. E sua moglie, sì, che cosa dice? Adesso tra poco sveliamo la passione di Mencaroni, non ve lo dico subito. Sua moglie cosa dice? Ma guardi, poi si genera anche una certa abitudine quando una, sì, persona ha una passione così forte. Si compatisce alla fine, ecco, non posso farne a meno. Allora, Luca Mencaroni è un collezionista di fumetti e album di figurine, ha pubblicato Album di figurine, che è una guida indispensabile per gli appassionati collezionista. Cos'è che c'è di così indispensabile per un collezionista di figurine? Beh, è indispensabile perché è l'unica catalogazione di questo materiale, di questa produzione editoriale che va dal dopoguerra ai primi anni 70, stiamo continuando anche addirittura con le nuove realtà editoriali. Quante ne ha di collezioni, di album di figurine completi? Ma guardi, la quantità è enorme, è abbastanza vasta, insomma, perché sono diverse centinaia. Diciamo che poi volendo non si finisce mai, perché continuano a uscire anche oggi, quindi insomma è un arricchimento continuo. Ma lei continua ancora a collezionare, a completare gli album? Ma diciamo che le nuove produzioni mi interessano relativamente meno, ecco, sì. Sono più legato al passato, ecco, insomma. Ecco, perché ha scelto le figurine? Ha cominciato da piccolo? Come funzionava? No, in realtà fumetti e figurine sono, diciamo, un richiamo probabilmente ai momenti dell'adolescenza, ai momenti così, ricordi della propria infanzia, quando insomma c'è una certa anche meno problematicità della vita, insomma, si è più sereni, quindi i ricordi di quei momenti riporta a momenti di gioia, momenti felici, insomma. Ecco, qual è l'album dal quale lei non vorrebbe mai separarsi? Ma probabilmente sono più di uno, sono più le collezioni piuttosto che, sì, l'album in sé per sé o il fumetto in sé per sé. Determinate produzioni che riguardano magari, ecco, una collezione, questo sì. Ce n'è una in particolare proprio? Probabilmente degli album sono i calciatori della Panini, che sono quelli che richiamano gli storici, insomma, insomma, che richiamano anche i momenti, ripeto, sempre appunto dell'adolescenza, i momenti passati. Questa è la molla che fa scattare un po' il meccanismo. Senta, dove vorrebbe finissero alla fine tutte le sue collezioni in un museo, in una, non lo so, chi, a chi vorrebbe lasciarle? Perché quasi tutti i collezionisti se la pongono. Eh sì, certo, poi... per cui la chiedo a lei, ecco, potevo chiedere anche ad altri. Quindi sicuramente a loro insomma, importa poco niente. È sempre così. Sì, probabilmente la cosa migliore sarebbe che potessi anche altre persone appassionate potessero disporne, quindi anche perché poi la cosa bella di chi colleziona è il fatto di poter mostrare agli altri, no? La sì, propria... oddio, c'è anche poi una sorta di gelosia morbosa, che guardare, insomma, guardare e non toccare, come diceva la mamma. Ho paura che magari non conoscendo anche, come dire, la rarità o magari anche quanto è prezioso un oggetto, lo si possa anche così sfogliandolo anche sciupare, perché sì, poi diventa, ecco, diventa anche una cosa feticistica. Ecco, infatti, certo. infatti lì andiamo nella ossessione, nella compulsione. Grazie intanto Luca Mencaroni, buona domenica. Prego, album di figurine, una guida indispensabile per i più appassionati. Allora, Nardone, prima del GR, un minuto e mezzo, il fatto di rendere tutto intonso, cioè diceva adesso Mencaroni, sa, magari qualcuno tocca che non sa quanto vale e rovina la pagina, ecco. Oddio, certo, si è rovinata, certo, la pagina, quindi... Sì, ma anche questo fa parte della compulsione che tutto deve essere perfettamente controllato, perfettamente in ordine, non deve essere sciupato da mano altrui, ma spesso nemmeno dalla propria. Quindi, ora, in una raccolta di figurine può venire anche più evidente questo bisogno, ma pensiamo che questo viene fatto anche con oggetti che invece sarebbero oggetti di uso, o altri materiali, proprio perché in questo caso la fissazione deve essere perfettamente intonso, mai, ecco, toccato, mai sciupato. Ecco, questo è interessante, perché se sono oggetti della quotidianità poi diventa difficile vivere la quotidianità, dico bene? Ecco. Esatto, ci sono infatti disturbi per cui nella casa il soggetto compulsivo impedisce persino ai suoi bambini, nelle situazioni più gravi, di toccare oggetti, perché quegli oggetti non devono essere toccati. Ecco, ne parliamo dopo il GR. Grazie intanto professor Nardone, e vi ricordo ancora il numero 349-238-6666. A tra poco nel riposo del guerriero. Mi sono incastrato. Il riposo del guerriero. E 16 minuti, ancora buona domenica. Da Stefano Gallarini continua il riposo del guerriero insieme fino a mezzogiorno. Vi ricordo intorno alle 11.45 la possibilità di portare a casa due biglietti per la mostra di Manet a Venezia fino al 18 agosto. Dovete associare il titolo di un'opera di Manet alle canzoni che vi farò ascoltare. Il numero per prenotarvi 800 24 00 24. Oggi stiamo parlando di manie, ossessioni, di collezioni, di cose delle quali non possiamo assolutamente fare a meno, non si capisce perché, e cerchiamo di capire anche quando questo non poterne fare a meno poi diventa un problema. E lo stiamo facendo insieme al professor Giorgio Nardone, che con Claudette Portelli ha scritto Ossessioni, compulsioni, manie, capirle e sconfiggerle in tempi brevi. Buongiorno, io colleziono le edizioni in tutte le lingue e dialetti del mondo di Pinocchio e sono quasi 300. Ecco, questa è una delle collezioni che abbiamo mai sentito in vita mia, un po' come gli interruttori del Mago Forrest. Poi c'è un altro ascoltatore che colleziona invece mulinelli da pesca e ha creato anche un sito, si chiama solomulinelli.it, perché ce ne avevo talmente tanti che li ho fotografati e messi su un sito, giustamente. E allora, prima di parlare con Nardone, devo beccarlo adesso, se no non lo sento più, e il Mago Sales, ciao Silvio Mantelli, sì, buona domenica. Buona giornata a tutti. Ecco, perché c'è la messa che aspetta. Spero che cominci alle 11:30, oppure facciamo aspettare. La facciamo aspettare, ecco, va bene. Fedeli devono, se non sono fedeli, ecco. Allora Silvio Mantelli è riuscito, sì, proprio ieri a inaugurare il sogno di una vita. Siamo a Cherasco, in provincia di Cuneo, e ieri è stato inaugurato il primo museo italiano, e uno dei più belli d'Europa, fra l'altro, dedicato all'illusionismo. Perché Silvio Mantelli è sicuramente un prete che ha fatto molto per i bambini in giro per il mondo e continua a farlo, ma ha una grande passione, quella della magia. Certo, io mi definisco così, un prete che fa il mago, ecco, io l'ho scelto di fare il prete, di fare il mago, cioè mi piaceva quando ero piccolino, forse mia mamma mi diceva sempre sparisci, a parte questo, cioè una dimensione della fantasia, della creatività, ecco. Poi però è chiaro, non ho scelto di essere prete, questo è stato la grazia di Dio. E io ho messo insieme le due cose, ecco, no? Per cui la magia serve per venire in contatto con le persone, con i giovani, girando il mondo, incontrando i bambini, incontrando popolazioni diverse, al di là della religione, ecco, perché io dico che i bimbi non hanno religione, perché sono la religione. Allora incontrando i bimbi, facendoli divertire, ho il passaporto, le porte aperte per tanti posti, soprattutto per il cuore della gente. E qui a Cherasco ho realizzato il mio sogno, con l'aiuto di tanti volontari in tutti i sensi, questo Museo della Magia che è stato ufficialmente dichiarato il più grande e originale attualmente in Europa. Ecco. Ieri c'era Silvan, ancora qui adesso, che è come un bambino che gira qui per queste sale, poi Arturo Bracchetti, il Mago Forest, Raul Cremone, Toni Binarelli, Alessandro, insomma c'erano tutti quanti. Ecco, Don Silvio, sì. Ha mai avuto qualche problema con la curia a causa della sua passione? Per, eh? Io lo so che c'è stato. Ragione. Ma io dico, uno non può aver tutto dalla vita, no? Però poi passa, no? Quando vedo queste cose dico, accidenti, meno male che c'è, no? È chiaro che i brontoloni, i musoni, gli invidiosi, ecco, nella chiesa, anche nella chiesa c'è purtroppo questo. Va bene, dai, uno deve un po' metterli nel conto, ecco. No? Ma alla fine però ha avuto ragione lei, alla fine. Ma penso di sì, ecco, perché in pratica... Ha dato all'Italia un qualcosa che assolutamente non c'era prima, e vi dico la verità, non è per sviolinare, io ieri ero all'inaugurazione, e vi dico che il museo è veramente molto molto bello, è davvero bello, è bello da vedere, anche se non siete interessati all'illusionismo, vi garantisco che fa venire voglia di interessarsi. Anche perché me l'ha creato un esperto attraverso, è chiaro, la regia di Arturo Bracchetti, ma poi è stato Alessandro Marrazzo, che è uno scenografo e lo scenografo di tanti registi italiani, che in pratica mi ha dato una grossa mano, anzi ha messo la sua collaborazione, ed è un gioiello in tutti i sensi. È vero. Se siete curiosi, venite a vedere. Ah, ma sicuramente. Ecco, lei ha una collezione di oltre 18.000 volumi, giusto? Sì, più o meno, ecco. Libri di magia, giochi di prestigio, di teatro. Sì. Ecco, lei ha un po' un'ossessione in questo senso, nel senso che deve averlo per forza, ha fatto di tutto per averlo. C'è un po' una piccola mania o no? Ma forse sì, sì, ecco. Noi abbiamo questa malattia che è un po' come il morbillo, no? E non te ne liberi, forse è come la malaria, quando te la prendi ci devi convivere insieme, no? Ed è anche forse contagiosa, io me lo auguro, che i giovani amino i libri al di là dei video, perché il libro leggi e crei con la mente, il video purtroppo no, è bellissimo, ti suscita un sentimento, però ti chiude in pratica l'immaginazione, perché è tutto lì. Sì, certo, non puoi inventare, sì. Insomma, siamo tutte persone che hanno appreso dai libri, per cui insomma, faccio parte anch'io, grazie al cielo, di quella generazione lì. Tra l'altro, il Mago Sarias, al contrario di molti, i suoi libri li fa toccare, basta mettersi d'accordo e li fa consultare tranquillamente. Io sono nato attraverso un libro di magia, e allora ecco, può creare un interesse, un'occasione. Anche io mi ricordo ad Arturo Bracchetti, che gli ho insegnato i primi giochi di magia, è stato con me un anno, era il mio assistente, allora aveva 14 anni e si è appassionata a quest'arte. Quando sono dovuto andare altrove, gli ho lasciato un libro, il libro di Fregoli, La vita di Fregoli. Gli ha cambiato la vita, quella cosa gli ha cambiato la vita, Arturo Bracchetti, poi quel libro, davvero. E quindi grazie al Mago Sales, meno male, grazie davvero. Grazie a tutti. Buona domenica, buona messa a questo punto. Dai, va bene. Io dico così, che il Signore ci benedica e la gioia dei bimbi ci accompagni, che ne abbiamo bisogno di entrambi. Grazie. Buona domenica. Andate a Cherasco a vedere il Museo dell'Illusionismo, è veramente, vale la pena che lo si veda davvero. Professor Nardone, allora stiamo raccontando degli oggetti della casa, addirittura genitori che dicono ai bambini non toccarlo perché c'è quell'oggetto se non deve essere toccato, professore? L'ossessione o la compulsione si struttura indipendentemente dal significato o l'utilità di un oggetto. può diventare fobia a qualunque cosa. Le faccio un esempio, io mi ricordo un paziente che aveva la fobia strana di dover rubare tutti i tappi di bottiglia per collezionarli, e non aveva niente che potesse essere razionalmente spiegabile, sì, o carico di significato. Ma quando veramente in famiglia c'è un soggetto che può avere il disturbo nella sua forma più invalidante, lui si difende la sua fobia dagli altri e vuole che gli altri si assoggettino. E questa è una delle poi complicazioni del problema, quando i familiari all'inizio assecondano perché non vogliono contrastare, poi diventano essi stessi vittime del disturbo. Ci sono famiglie che vengono trincerate in una stanza perché tutte le altre stanze sono da non toccare, da non violare, da non sporcare, da non... è la forma forse più invalidante del disturbo, perché poi coinvolge tutti gli altri. Certo, come possiamo fare? Ora, i familiari in questo caso cosa possono fare? Allora, prima di tutto i familiari, è la cosa molto importante, devono evitare la trappola di essere coloro che cercano di rassicurare il soggetto rispetto alla sua ossessione, alla sua fobia. Che so, questa cosa è pulita, mamma? Se la mamma dice sì, è pulita, in realtà nel momento rassicura il figlio, ma gli conferma che la sua ossessione era giusta. Andando avanti con rassicurazioni, sul momento si tampona la fobia, ma si conferma la veridicità dell'ossessione, che in realtà invece è una cosa inventata. Allora il genitore deve imparare fin da subito che quando la richiesta di rassicurazione è una richiesta assurda, si deve evitare di dare la risposta, o si dà una risposta che rimanda indietro la domanda. Che so, io quando vedo in terapia situazioni come queste, la prima mossa terapeutica è proprio quella di spiegare ai genitori, davanti anche al soggetto che deve essere lucidamente consapevole di quello che verrà fatto, che ogni qualvolta chiederà rassicurazione per una cosa assurda, i genitori devono rimandare indietro la domanda dicendo: tu che ne pensi? Una risposta standard, ma che vuol dire dare risposta ma non dare risposta. Sì. E questo deve essere fatto progressivamente con tutto, quindi quando abbiamo situazioni estreme dove la casa è stata conquistata dall'ossessione, poi ci si deve riconquistare un pezzettino per volta, proprio di nuovo, facendo in modo che si tocchi la cosa e si fa vedere che non succede nulla, si tocca la cosa e si fa vedere che non succede nulla, proprio San Tommaso Docet, no? Insomma, alla fine è davvero il toccare, appunto, il toccare con mano, il provare sulla propria pelle che non succede niente, è il fondamento per cominciare ad affrontare il problema e poi cercare anche quando di risolverlo. Quando si tratta di riti propiziatori, sì, quando si tratta invece della pulizia, sì, per esempio, lì dobbiamo fare cose differenti, no? C'è la tecnica del controrituale, quando la persona mette in atto dei rituali che si ripetono, allora lì la tecnica fondamentale è costruire un controrituale terapeutico, ovvero se tu ripeti quel rito una, due, tre volte, ti costringo, proprio con un accordo terapeutico, non è che ti costringo sforzatamente, a ripeterlo 10 volte, né una volta di meno, né una volta di meno. Ecco, cioè, adesso tu quel rito lì lo devi fare, non so, ogni ora del giorno, e esatto, devi importi di farlo ogni ora per un certo numero di volte, sì, che ti dico io. Allora, lì perde, alla fine perde l'importanza, quindi. Sì, perché prendiamo il potere dell'ossessione noi, perché se la ritualità diventa prescritta, sì, non è più l'ossessione che comanda, siamo noi. Allora si smonta il potere dell'ossessione e gradatamente la persona smette di fare la prescrizione, ma smettendo di seguire la prescrizione non segue più l'ossessione. Ecco, speriamo di aver dato intanto una mano ai nostri ascoltatori, poi chiaramente una mano chiedetela se vedete che la vostra ossessione sta diventando esagerata, non vi permette di vivere, siete in una gabbia, allora a quel punto dovete assolutamente riferirvi a un esperto, però si può cominciare da qui. Ossessioni, compulsioni, manie, capirle e sconfiggerle in tempi brevi. Ponte alle Grazie Edizioni, grazie Giorgio Nardone per essere stato con grazie noi, grazie voi, davvero anche per le cose che ci ha consigliate. Abbiamo ancora ancora un po' di chicche, una chicca su Arturo Bracchetti, appunto allievo del Mago Sales, e che non sarebbe diventato il più grande trasformista del mondo se il Mago Sales non gli avesse dato quel famoso libro di Fregoli. Ed è vera, la storia è proprio questa, è l'unica e vera storia. Arturo, per uscire dalla timidezza, cominciò a occuparsi di magia, e quello fu il primo libro che lo segnò a vita, grazie al cielo, è uno degli artisti più famosi del mondo, addirittura con una statua al Museo delle Cere, Madame Tussauds di Parigi. Il riposo del guerriero. Massimo Bucchi aveva scritto un libro, Champions Stick, stranezze e manie degli idoli del calcio. Massimo Bucchi, buona domenica. Buona domenica. Allora, il libro è un po' datato, qualche anno, ci sono invece nuovi sportivi, nuovi idoli del calcio che avranno comunque idee che lei continua a seguire, però, perché è incuriosito da questa cosa. Ma diciamo che questo io continuo a seguire, però ho cessato personalmente di, io ho fatto vignette sportive dalla nascita, sì, di Repubblica fino a pochi anni fa, e ho smesso semplicemente perché era un super lavoro, nel senso che io già facendo altri tipi di vignette nel giornale, poi la vignetta sportiva mi costringeva a lavorare anche la domenica, a seguire le partite in diretta la sera, che sono le più importanti, e quindi a fare le vignette nel giro di 20 minuti, diventava uno stress molto. E poi, a parte il giornale dove lavoro, cioè, ma la vignetta sportiva, o comunque l'umorismo sportivo, non è così diffuso, magari a livello televisivo, ma a livello grafico. Io ho fatto nel 1986-87 la prima domenica sportiva di Sandro Ciotti, che era un carissimo amico. E ho fatto vignette per un anno, facevo una vignetta alla settimana, e dopo sono stato cacciato via con ignominia, cioè una battuta, nel senso che semplicemente non mi è stato rinnovato il contratto e non è stato preso nessun altro per farlo, cioè l'esperimento della vignetta è morto lì, diciamo, della vignetta sportiva, perché evidentemente c'è anche i giornali sportivi, non è che mi sembra che siano particolarmente attratti dalla satira, e quindi è una zona così abbastanza tabù questa. Ecco, perché gli sportivi non vogliono che così vengano rivelati quelli che sono i loro riti? Ma perché, non so, la vignetta sportiva, fra l'altro, è una vignetta che per caratteristiche di immediatezza, eccetera, proprio ferisce al livello. Beh, certo, è fatta apposta, sennò la satira poi funziona anche su quello, non mica esiste solo la satira politica, esiste anche la satira sportiva. Sì, ma la satira sportiva però è completamente diversa, nel senso che la satira sportiva, la vignetta, la battuta, eccetera, poi finisce immediatamente, cioè se uno rilegge la stessa vignetta una settimana dopo non ha più quell'ora lì, quel senso, cioè, per esempio, io c'è una battuta su Spalletti che c'era, che diceva la Roma ha carattere, quando siamo in vantaggio riusciamo sempre a recuperare. Questa è una cosa che chiaramente non faceva piacere ai tifosi giallorossi, oppure non so, Moratti che deve risolvere al più presto il suo conflitto di interisti. Questa era una vignetta del 2010, questa che ho citato prima era del 2007, ma sa, il momento in cui c'è un pubblico, come posso dire, molto, specialmente anche sui giornali sportivi, molto, come posso dire, portato a fare un certo tipo di tifo per sì, sì, come quando c'è il fanatico non si può toccare, certo, un attimo spiazzati, che non... La tifoseria non si può mai toccare, ecco, perché dà fastidio, c'è niente da fare. Sì, cioè, sì, la domenica sportiva ci fu, come? No, dico appunto, c'è sulla ribellione, immagino, ecco. Sì, diciamo, non è la zona più adatta per esercitare la satira, diciamo. Guardi, io una volta in una radio, un'altra radio, dove si metteva musica, ho osato parlare, dove ho detto che un cantante era ingrassato, perché era vero, non sentivo più da tempo, era ingrassato, lei non sa cosa mi hanno detto perché ho detto una cosa del genere, perché era intoccabile. Grazie Massimo Bucchi, vi ricordo il libro Champions Stick, stranezze e manie degli idoli del calcio. Buona domenica ancora, bene, grazie. Buona domenica. E come promesso vi faccio sentire la mia curiosità che riguarda Arturo Bracchetti, che un giorno fece una cosa che non doveva fare, che ha rivelato a noi, nessuno la sapeva prima d'ora, per accaparrarsi una cosa che voleva a tutti i costi. Io ho una casa piena di stupidaggini, quindi colleziono stupidaggini, cose infantili, giochi, cose che facciano parlare. Gli inglesi li chiamano conversation piece, cioè tu inviti qualcuno a casa tua e dici: che è sta roba lì? Ah, ma non lo sai, e lì fai la tua bella figura. Quindi vado in giro per mercatini a cercare cose curiose, tipo un carillon dentro una bottiglia con una ballerina che balla nell'acqua, tipo una scimmia, testa di scimmia robotizzata che fa, oppure orsacchiotti, animali vari di peluche che sono animati, che li metti lì dopo mezz'ora fanno, e quindi se tu mangi che cazzo succede, insomma sono i miei animali animati. Poi altre stupidaggini varie, ma carine, cioè non quelle cose proprio da scherzi e basta, proprio devono essere già un po' antichi, un po' vissuti, un po' che abbiano la loro anima, perché io credo che gli oggetti usati abbiano la loro anima. E in effetti una volta ho conosciuto un poeta in Barcellona che metteva dentro delle cornici degli oggetti, tipo il pettine di sua nonna, e lo vendeva tra l'altro molto caro, perché era considerata opera d'arte proprio perché aveva una sua vita. Ed è vero, gli oggetti a volte ci vivono più di noi, quindi durano nel tempo più di noi e possono portare la loro storia anche ai proprietari seguenti. Quindi io amo credere questo, anche se forse non è vero, perché mi riempie la casa di molti spiriti, spiritelli carini. Una volta, per avere una cosa a tutti i costi, devo dire che ho truschinato, perché c'era una festa di beneficenza in collegio e io volevo assolutamente questa lancia intrisa di curaro che arrivava dalle missioni, ed essendo io uno dei curatori della lotteria, ho nascosto il numero della lotteria. Poi proprio ho fatto una truffa e me lo sono poi nascosto in mano, ho fatto finta di pescarlo e di vincere, perché poi ho vinto ovviamente questa lancia avvelenata, e devo dire che non l'ho mai confessato a nessuno, però spero che nessuno ne abbia male. Giochi e videogiochi. Eh già, le manie esistono, e come le ossessioni, anche le compulsioni. Chi raccoglie, chi non può fare a meno di, chi ha la casa invasa di giochi e videogiochi. Cominciamo con i giochi, ovviamente. Ciao Andrea Ligabue, buongiorno. Ciao Stefano, buona domenica a tutti. Hai contato e catalogato le scatole di giochi che hai a casa? Non l'hai mai fatto? No, l'ho fatto, non tutte, perché diciamo arrivano spesso a ritmi maggiori rispetto a quello che riesco a catalogare, però diciamo ne ho catalogati più di 1500. Quante volte tua moglie ti ha detto fuori tu o fuori i tuoi giochi? No, per fortuna non me l'ha ancora detto, anche perché molti giochi comunque li giochiamo in famiglia così, però sicuramente mi ha detto fuori giochi dai posti inopportuni, perché adesso li appoggio lungo le scale, sui tavoli, insomma dove capita, quindi diciamo a volte sono anche un po' fastidiosi per la vita familiare. C'è qualche gioco che così ti sei ritrovato appunto tra le scale, in mezzo ad altri di cui non ti ricordavi assolutamente più? No, guarda, questo proprio che non mi ricordavo più, no, anche perché ogni tanto, penso che sia una caratteristica di tutti i collezionisti, mi piace andare a guardare nei vari scaffali, cercare di guardarmi i vecchi giochi, i vecchi titoli, quindi c'ho proprio giochi di cui non mi ricordavo, che non mi ricordavo di avere, no, sicuramente dei giochi che mi ero dimenticato lì da un po' di tempo e che ritirandoli fuori mi è tornata voglia di giocare, quello di sicuro. Perché non ne puoi fare a meno? Cioè, perché non puoi liberarti di molti titoli e tenendo solo quelli che ritieni più interessanti? Questo me lo sono chiesto e non lo so, tra l'altro a me è capitato anche di avere dei giochi in duplice copia, magari ho comprato la versione in inglese quando non era ancora arrivato il gioco in italiano e poi dopo ho preso la versione in italiano quando è uscito in italiano, e non sono mai riuscito a vendere o a regalare uno dei giochi, anche quelli che avevo in più copie. Non lo so, forse perché ogni gioco è legato comunque un ricordo, il momento in cui l'ho comprato, oppure l'attesa prima che uscisse, oppure proprio legato al ricordo di partite fatte, quindi faccio proprio fatica a staccarmi dai giochi che ho. Ecco, tu hai solo questa, diciamo, mania, oppure ne hai anche delle altre, magari indicibili? No, c'è le altre collezioni che non vuoi raccontarci o che non No, indicibili no, però da quando ero ragazzino, sì, per tanti anni ho fatto collezione, io non ho mai fumato in vita mia, ho fatto collezione di pacchetti di sigarette. Ah. Mi ricordo che io e mio cugino andavamo in giro anche a volte a raccogliere, se ci pensa adesso, a raccoglierli per terra per collezionare. Ne avevo messi insieme veramente tanti. Poi un giorno ho abbandonato la collezione e sono, alla fine li ho buttati via tutti, quindi è un così, perché te, strano. Sì, ti è arrivato il rigetto proprio, cambiamo, sì, beh, sì. Forse lì c'è un passaggio della propria vita, no? Ecco, e per capire, c'è un passaggio, allora a quel punto si getta via per dire adesso ho una vita nuova. E, senti Andrea, e tu c'è qualcosa che hai fatto per avere un gioco che assolutamente desideravi a tutti i costi? Sì, diciamo, ci sono due giochi particolari. Allora, uno che si chiama Zarkos Lord, che è un gioco che adesso ha anche un valore molto molto alto nei collezionisti, un gioco italiano prodotto da International Team, che fu uno dei primi giochi di cui mi innamorai, e mi ricordo che all'età di 15 anni ero andata al negozio per comprarlo, ma costava troppo rispetto ai soldi che avevo come paghetti. Alla fine ne comprai un altro, e anni e anni dopo mi sono voluto togliere la voglia, il gioco l'avevo visto, ci avevo poi giocato perché ce l'avevo dei miei amici, e finché mi sono, diciamo, cercato tra varie aste, collezionisti così, e me ne sono comprata non una ma due copie, perché esisteva in scatola gialla, in scatola perché non si arancione, sa mai, quindi l'ho comprato e mi sono tolto la voglia. Non si sa mai. E l'altro titolo invece? No, l'altro titolo è sempre legato all'International Team, che era un gioco che si chiamava Hydro, che io avevo e poi avevo scambiato con mio cugino per un altro gioco che lui aveva sul football americano che mi piaceva, però mi era rimasta la voglia, e dopo tanti anni chiesi a mio cugino, che non è un appassionato di giochi così, se me lo rivendeva, e non me lo voleva vendere perché diceva che anche lui si era poi affezionato a quel gioco lì, lo teneva come ricordo. E dopo anche lì ho cercato tra amici possessori giochi così, finché ho trovato un anno un amico che me ne ha venduto una copia, e sono riuscito quindi ad avere anche quello. C'è un gioco che stai cercando che non sei ancora riuscito a trovare? No, diciamo che tutto quello che volevi ce l'hai. Attualmente no, però ho comprato, ecco, un gioco molto particolare. Ad esempio ho comprato un gioco in tiratura limitata, che ne hanno fatto solo 1000 copie in tutto il mondo, che è una versione, diciamo, deluxe del gioco della Guerra dell'Anello, e sono contento, e mi sono pentito di averne comprato solo una copia. Ecco, certo. Potevi fare potuto comprare due per usarne una da giocare, l'altra a tenere in tolta. Ecco, perché questo poi è tipico appunto dei maniaci, quello di non toccare, non usare. E senti un'altra cosa, c'è mai stato qualche tuo amico o amica, ovviamente, con un gioco che non ha mai apprezzato e tu in qualche modo te lo sei fatto prestare per poi non restituirglielo più? No, diciamo proprio in maniera così meschina, no. Però diciamo mi è capitato spesso di andare in casa di amici non collezionisti che mi dicevano ma questo gioco che non uso, e io insomma l'ho buttata lì dicendo ma se proprio non ti interessa lo prendo io, lo metto insieme agli altri, lo tratto bene, insomma, ecco, cose del genere mi è capitato di farlo, proprio farmelo prestare per poi non renderlo più, no. Senti, l'ultima cosa Andrea, ci sono dei titoli che hanno particolarmente valore in questo momento che magari qualcuno a casa potrebbe avere e potrebbe pensare di metterlo all'asta? Dunque, diciamo, a livello mondiale le aste variano, diciamo, uno dei giochi che forse vale di più attualmente è Metropolis, che è un vecchio gioco. Invece nel mercato italiano dei collezionisti, copie in buono stato di quel gioco, ad esempio che vi dicevo prima, Zarkos Lord dell'International Team, o anche tutti i giochi tipo edizioni speciali o a tiratura limitata del Monopoli del Risico, anche in edizione italiana, hanno valore. Ecco, diciamo che nel mercato dei collezionisti ha molto valore se il gioco è intonso o comunque in buone, diciamo, condizioni. Complete in buone condizioni. Cioè anche un gioco, diciamo, di valore, però in cui manca una pedina, non in buone condizioni, di solito chiaramente lo perde. Cercato. Senti, quanto può valere un Metropolis, visto che il nostro Filippo Aureggi pare ce l'abbia a casa? Quanto gli possiamo dare per questa scatola? Dipende da che edizione è tutto, però potrebbe valere sicuramente più di 200 euro. Va bene, allora me la farò prestare, poi non gliela restituirò e la troverà tranquillamente su eBay. Grazie Andrea Ligabue per le tue curiosità. Vi ricordo il sito di Andrea, che è ludologo.com. A domenica prossima, ciao. Ciao Stefano, buona domenica a tutti. Ciao ciao. Vedo intanto le firme, Laura Bettini. Sì Stefano, stiamo assistendo un po' tutti quanti qui in studio al giuramento dei 21 ministri del governo Letta, sono saliti al Colle questa mattina appunto per questa cerimonia e si stanno susseguendo molto rapidamente. Vincenzo Miglietta in collegamento con noi da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori, 21 ministri, questa è la composizione del governo, 7 donne, come dicevi da studio, un giuramento molto veloce, durerà pochi minuti, hanno già giurato il premier incaricato, ma che ha sciolto la riserva Enrico Letta, il vice premier e ministro dell'interno Angelino Alfano. Dicevamo quindi un governo che sta assumendo l'ufficialità dei propri poteri, i prossimi passi saranno quindi alle 13 il cambio della guardia tra il governo uscente tecnico e il nuovo esecutivo a Palazzo Chigi, la famosa cerimonia dello scambio della campanellina con la quale vengono annunciate le sedute del Consiglio dei Ministri e quindi domani la fiducia del nuovo esecutivo di fronte alla Camera e poi martedì di fronte al Senato. Dicevamo quindi un governo di 21 ministri, 7 donne, e molti i nomi importanti, da Alfano cancellieri, Mauro Mauro al Ministero della Difesa, Saccomanni al Ministero dell'Economia, ma anche molti volti nuovi, il primo ministro di colore, il deputato del Partito Democratico Chienge, poi tanti altri volti. Per una media di età di questo esecutivo che sta giurando in questi minuti sotto i 50 anni, un esecutivo nuovo che si prepara ad affrontare tante sfide, tra tutte quelle dell'economia, l'IMU, è importante vedere come questo esecutivo si comporterà in tal senso, ma anche le prossime scadenze, quali le aste dei titoli di Stato. E il giuramento sta procedendo qui al Salone delle Feste, è presente logicamente il Presidente della Repubblica Napolitano, accompagnato anche dalla consorte Clio, è una cerimonia veloce, sobria, ma che dà l'idea dell'urgenza che questo esecutivo debba in tempi rapidi entrare in vigore dopo 60 giorni di stallo conseguiti dal voto elettorale. Grazie a Vincenzo Miglietta, ripetiamo, come dicevamo, subito dopo trasferimento a Palazzo Chigi per il primo Consiglio dei Ministri e poi dopo domani avanti per arrivare alla fiducia, prima lunedì alla Camera, poi dopo si andrà martedì invece al Senato. Questo al momento la situazione. Stefano Gallarini, ti restituiamo la linea e ci troviamo con GR24 alle 12, dove ripercorreremo poi dopo appunto le tappe di questo giuramento. Grazie Laura Bettini, ci sono le previsioni del tempo e poi continua il riposo del guerriero. Il riposo del guerriero. Andiamo avanti con il riposo del guerriero, è il momento delle suggestioni del nostro gastronauta. Le suggestioni del gastronauta. Ed è Paolini in giro per l'Italia a cercare suggestioni per noi. Che cosa hai trovato, Davide? Ciao. Molte cose, tre segnalazioni da fare oggi. Innanzitutto cominciamo da un'osteria, l'Osteria delle Vigne, in quel di Viazzano, provincia di Parma. Un posto veramente da provare, perché si mangia una torta fritta come poche volte avevo mangiato, asciutta, e poi una serie di primi piatti davvero da primati, ad esempio i tortelli, ci sono con le patate, con i porri, ci sono con il finocchietto, con le erbette, con la zucca, quindi veramente si può fare una verticale di tortelli. E poi ancora gnocchi di zucca, e poi chi volesse ancora proseguire, avesse ancora magari un po' di spazio, polpettine di vitello o una grandissima punta di petto, appunto eccellente anche questa, e si può finire con un buon gelato alla crema, magari uno mette sopra anche il caffè e alla fine si fa un affogato al mio. E poi ancora vi segnalo la Manuelina di Recco, posto famosissimo, conosciutissimo, però ancora veramente sulla breccia, sia la focacceria dove si mangia appunto, lì sembra che sia stata inventata la focaccia di Recco con la crescenza, che viene voglia di mangiarne non una fetta ma tanto. Non dirmelo, guarda. E quindi viene l'acquolina in bocca quando si vede arrivare quel testo, sì, con quella focaccia enorme, mamma mia, mi viene ancora un'acquolina in bocca. Ma tra l'altro ho mangiato anche una cosa che è rara da trovarsi, un crostaceo che si chiama battibatti, ecco, i battibatti alla catalana, e devo dire che poche volte l'avevo mangiato in vita mia, l'ho trovato e me lo ricordavo per un pesce veramente, un crostaceo veramente straordinario, che secondo me è superiore all'aragosta addirittura come carne, quindi chi lo trovasse in giro prego assaggiarlo perché ne vale la pena. Quindi Manuelina di Recco, E poi ancora vi voglio segnalare un ristorante in quel di La Spezia, cioè la Liguria non è che ha tantissimi ristoranti, ed è pure lo Spezzino, però questo qui ve lo segnalo in maniera particolare, perché dentro la città si chiama La Posta e chiama anche l'arte. Vado a vedere questo ristorante perché dentro ci sono dei pezzi d'arte veramente intriganti, e con un artista che si chiama Tomalino, devo dire che fa dei cavallini veramente che uno ben voglia da portarseli via. Qui si mangia il pescato sia all'amo, e si trova ancora, oppure si possono mangiare i rossetti, si può mangiare anche uno spago con cicale al pomodoro, e come dicevo appunto il pescato c'è ricciola, orata, spigola, fatti in diverse maniere e ovviamente alla ligure. Quindi riassumendo, Osteria delle Vigne, in quel di Viazzano, in provincia di Parma, Manuelina, Arecco, e La Posta in quel di La Spezia. Ecco Davide, se qualcuno volesse fare qualche segnalazione perché ha trovato un posto degno di nota, cosa può fare? Volentierissimo, info@gastronauta.it, le vado a verificare come mi succede spesso, ma anche se mi volesse segnalare un formaggio, un salame, una pasticceria. Ora che arriverà l'estate, per le gelaterie, le pizzerie, ricordo il sondaggio www.gastronauta.it, la miglior pizzeria d'Italia, quindi si può votare, quindi mi si possono segnalare le pizzerie, insomma tutto, mi si può segnalare tutto, e io di solito rispondo, oppure vado a provare. Devo dire che qualche volta mi sono state date delle ciofeche, però va bene, succede, lo stesso. Vabbè, sai. Succede. Però devo dire che molte volte ho fatto anche delle scoperte straordinarie grazie ai radioascoltatori di Radio 24, che io invito, quindi segnalatemi, e poi dopo magari vi faccio anche sapere se era una ciofeca oppure se era qualcosa di positivo. Magari si potrebbe fare anche una domenica le ciofeche che ho trovato e invece i posti giusti che mi sono stati perché segnalati. No, anche perché così spieghi anche perché consideri una ciofeca un determinato posto. Ma guarda, molto volentieri, no? Perché uno non può girare tutta l'Italia, certo. E credo che le segnalazioni siano molto molto importanti, e prego che non siano i proprietari dei locali, come mi è successo a volte lo fanno, lo sappiamo, e vabbè. Ma magari lo facciano fare dallo zio, dal nonno, dalla sorella, ecco, così è molto più divertente. Tu mi hai segnalato un ristorante in cui dobbiamo andare assieme da mesi. Sì, sì, a vedere, e ne ho anche un altro adesso, di tutt'altra pasta, ma comunque dobbiamo farlo. A vedere se quel costo di quel ristorante vale la pena, e prima o poi andremo assieme, così faremo. Secondo me non ne vale la pena in generale, cioè proprio questo è un discorso generale. Comunque vabbè, ne parleremo sicuramente. Ma devo dire, segnalatemi anche i vini, gli oli, tutto insomma, certo. Gli aceti. Qualunque cosa possa dare una suggestione al nostro gastronauta. Buona domenica, ciao Davide. Buona domenica a tutti. Manè in 24 minuti. Possiamo portare a casa due biglietti d'ingresso alla mostra Venezia, Manet, ritorno a Venezia, fra l'altro una mostra progettata con la collaborazione speciale del Musée d'Orsay di Parigi fino al 18 agosto. Per riuscire a portarvi a casa i biglietti dovete associare una canzone che vi faccio ascoltare al titolo di un'opera di Manet, e la canzone che vi faccio ascoltare è questa, ma prima il numero di telefono 800 24 00 24. Questa canzone, c'è niente da fare, c'è il testo, fa veramente molto ridere, è una vecchia canzone di Nino Ferreri, cantata fra l'altro anche da Mina, scritto Le Cornichons, che sono i cetrioli. Allora, abbiamo, credo, Francesco da Milano, se è il primo, sì, Francesco, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Francesco, allora, questa canzone di Nino Ferrer, tra l'altro appunto molto divertente, che cosa ti ricorda, quale quadro di Manet ti può ricordare? Allora, l'unica cosa che mi poteva ricordare era, tanto per stare in dieta vegetariana, l'asparago. Non è l'asparago? Ero qua pronto a darti i biglietti perché ho detto tanto, è la cosa più facile del mondo, abbiamo cominciato proprio nel modo più semplice, ma non è quello, quindi devo dire grazie Francesco, ciao, buona giornata, ciao. Chiara da Lucca, buona domenica. Sì, buongiorno. Allora Chiara, che, a quale quadro si riferisce secondo te questa canzone di Nino Ferrer? Allora, io avevo pensato alle Déjeuner sur l'herbe. Le Déjeuner sull'erba, ovvero colazione sull'erba, è certo che è. Loro parlano di una partenza per un picnic nella natura, hanno portato i cestini, le bottiglie, i pacchi, la radio e i cetrioli, ovviamente questo è anche esattamente questo, la colazione sull'erba di Manet, credo uno dei quadri in assoluto più famosi, e per te allora i biglietti d'ingresso per la mostra a Venezia, complimenti, ciao, buona domenica. Grazie a voi, arrivederci. Ciao, e un altro quadro, ma come sempre vi aiuterò, ma credetemi, sono facilissime le risposte, prima però una curiosità su Manet. Manet in 24 minuti. Édouard Manet nasce a Parigi il 23 gennaio 1832 in una famiglia della ricca borghesia parigina. Il padre era giudice, la madre figlia di un diplomatico. Destinato a seguire la professione paterna, iscritto al Collège Rollin nel 1839, Édouard si rivela uno studente svogliato, affascinato più dalla pittura che da qualsiasi altra materia. Poiché il padre si oppone fermamente a che il figlio intraprenda la carriera artistica, disdicevole per la sua classe sociale, Édouard Manet tenta la carriera navale, senza però riuscire a superare l'esame d'ammissione all'Accademia. Nonostante la bocciatura, il forte desiderio di indipendenza ed il carattere ribelle spingono Édouard Manet ad arruolarsi sedicenne come mozzo su un mercantile, salpando con una nave diretta a Rio de Janeiro. E così scopriamo anche dei particolari della vita di Manet e questa è la canzone che ha a che fare con il prossimo quadro da indovinare. Della provincia di Varese, buona domenica. Buona domenica. Ciao Paola, allora avrei conosciuto questa canzone di Mina molto famosa, anche sì, molto vecchia, che è Le mille bolle blu. Sì. C'è un quadro di Manet che decisamente ha a che fare con questa canzone. È un quadro di Manet che rappresenta una persona che fa qualcosa. Come si intitola il quadro? Riguarda una barista? No, ha a che fare con questa canzone proprio, Titolo? Il bar alle foglie per sé? No, mi piace molto fra l'altro quel quadro, ti dico la verità. Era uno dei quadri che avrei inserito nella puntata di oggi, ma non l'ho fatto, e quindi non è quello, purtroppo. Però grazie, grazie Paola, ciao, grazie. Buona domenica, grazie, brava comunque. Luciano da Padova, buona domenica. Buona domenica. Tanto vi ricordo il numero, 800240024. Allora, qual è il titolo del quadro di Manet che può avere a che fare con la canzone di Mina che abbiamo ascoltato? Le bolle di sapone, le bolle di sapone. Sì, no, quasi, forse, sai dirmi il soggetto non è una bolla di sapone. C'è un ragazzo che c'è un fiore che fa... Eccolo là, sì. E si trova a Lisbona al Museo Colus. Vabbè, su internet l'avrai visto adesso, no? No, l'ho visto. Ah, no, bene, allora scusami. No, perché se su internet è tutto facile, che uno sa tutto e in realtà uno non sa niente. Il titolo suo proprio le Ragazzo che soffia le bolle di sapone, le bolle di sapone, invece in francese, esatto, più abbreviato, noi abbiamo aggiunto anche il personaggio, quello che volevo sapere, ma sapevo che ormai eri sulla dritta via, per te i biglietti per la mostra di Venezia fino al 18 agosto. Avrei tempo per andarla a vedere, complimenti. Grazie. Ciao, grazie. Ascoltiamo un'altra curiosità sul nostro Manet prima del prossimo indizio. Manet in 24 minuti. A Al ritorno dall'esperienza marinara, Edouard Manet, obbligato dal padre a scegliere tra Cole de Beauharnais e lo studio del ritrattista e pittore storico Thomas Couture, noto esponente della scuola classicista, accetta, suo malgrado, la seconda soluzione. Durante i sei anni successivi, Manet contesta al maestro per i soggetti proposti, ma assimila ogni lezione circa la tecnica pittorica di stile tradizionale, approfondendo la conoscenza dei capolavori del passato. Nel 1865, Edouard Manet intraprende un viaggio che lo porta a vedere e studiare le opere pittoriche in Germania, in Italia, nei Paesi Bassi e in Spagna, dove si lascia influenzare particolarmente dalle opere di Franz Hals, Diego Velázquez e Francisco Goya. Dopo questa esperienza, Manet si appassiona a scene spesso spagnoleggianti e dai ritratti, ripresi con ampie e vivaci pennellate. Ispirandosi alla Venere del Tiziano, Edouard Manet espone il nudo L'Olimpia, occasione di un nuovo scandalo nei salotti parigini. E continueremo a raccontarvi la storia di Manet e a darvi anche i biglietti per la mostra a Venezia la settimana prossima. Grazie per essere stati su Radio 24, continuate a farlo. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Benedetta Acri, Roberto Scartritti invece in regia. Buona settimana da Stefano Gallarini e ci sentiamo domenica prossima alle 10 con il riposo del guerriero.